La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Fiabe, favole, racconti, leggende. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.paroledistorie.net. I tre doni del padre. Una fiaba liberamente ispirata dalla tradizione popolare. Scritta e messa in voce da Gaetano Marino. Un anziano padre aveva tre figli. Il maggiore si chiamava Giovannino, il secondo genito Pasqualino e il più piccolo Franceschino. Quando l'anziano padre sentì vicino il tempo di lasciare questo mondo per iniziare il viaggio verso il lungo sonno, chiamò i tre figli al suo capezzale e con un filo di voce disse loro: «Figlioli miei cari, il mio tempo sta per finire e sento che sto per lasciarvi, ma prima voglio farvi dono dei miei beni. Giovannino caro, a te desidero donare la mia mastrucca, che ti renderà invisibile quando la indosserai. A te, Pasqualino, lascio il mio organetto. Quando lo suonerai, vedrai apparire un plotone di guardia caccia, pronti ai tuoi ordini. A te, Franceschino, lascio la mia bisaccia di pelle di montone, che non resterà mai vuota. E ora, figli miei cari, è giunto il momento di lasciarvi. Abbiate cura di voi stessi e restate sempre uniti. Addio». Dette queste parole, l'anziano padre esalò l'ultimo respiro e i tre figli piansero di dolore. Trascorso il tempo del lutto, i tre fratelli se ne andarono in giro per il mondo seguendo il proprio destino. Franceschino prese la bisaccia di pelle di montone donatagli dal padre e se ne andò in una città dove sapeva che una donna di nome Vittorina era molto brava a giocare con i dadi. Franceschino andò a casa di quella donna per chiedere di poterla sfidare. Quando donna Vittorina si trovò di fronte un ragazzo giovane, domandò se egli avesse abbastanza denaro con sé. Franceschino slacciò la bisaccia, l'aprì e levò un bel pugno di monete d'oro. Figurarsi lo stupore di donna Vittorina, che subito accolse Franceschino e lo invitò al tavolo da gioco. E la partita cominciò. Dopo il primo lancio di dadi, Franceschino perse. Riaprì la bisaccia e levò un altro pugno di monete d'oro. Lanciò i dadi e perse di nuovo. Levò dalla bisaccia un altro pugno di monete d'oro e perse ancora. Più perdeva, più levava fuori dalla bisaccia pugni di monete d'oro. Donna Vittorina cominciò a chiedersi quante monete d'oro potesse contenere quella bisaccia, che per giunta dava l'impressione di restare sempre gonfia. Dopo parecchie giocate, donna Vittorina perse la pazienza e strappò dalle mani di Franceschino quella bisaccia. Vi guardò dentro e vide che era ancora colma di monete d'oro. Com'era possibile? Quella bisaccia sarebbe dovuta essere vuota per le tante monete d'oro perse da Franceschino, e invece apparivano sempre più monete. Dunque, quella bisaccia doveva essere magica. Donna Vittorina chiamò subito i suoi guardaspalle e ordinò loro di scaraventare fuori dalla casa Franceschino, e ovviamente tenne la bisaccia per sé. I guardaspalle afferrarono Franceschino ed eseguirono gli ordini. Fuori c'era un forte temporale e il povero ragazzo ruzzolò su una grande pozzanghera di fango. Lo sventurato pianse e, dopo essersi sfogato, decise di tornare alla sua vecchia casa. Durante il cammino incontrò il fratello maggiore, Giovannino, il quale, vedendo Franceschino sporco di fango, gli domandò: «Franceschino, fratellino mio, perché sei sporco di fango?» «Oh, fratello mio Giovannino», rispose Franceschino, «che bello averti incontrato proprio ora! Ti prego, prestami la mastrucca che ti ha donato il nostro caro padre!» «Volentieri, ma prima dimmi, che ti è successo?» «Una donna cattiva mi ha rubato la bisaccia magica. Vorrei indossare la tua mastrucca e diventare invisibile per tornare in quella casa della donna malvagia e riprendermi la bisaccia!» Giovannino levò dal sacco la mastrucca e la donò al fratellino. Appena Franceschino la indossò, diventò invisibile e subito corse alla casa di donna Vittorina. Quando arrivò, bussò alla porta. I guardaspalle andarono ad aprire e non videro nessuno. Franceschino entrò in casa passando tra le gambe dei guardaspalle. Cercò la camera di donna Vittorina e, quando la trovò, bussò alla porta. La donna andò ad aprire, ma non vide nessuno, e Franceschino passò rapido sotto il suo braccio. Appena fu accanto al tavolo che stava al centro della camera, si tolse la mastrucca e riapparve. «Ladra, ridammi la mia bisaccia!» minacciò Franceschino. Donna Vittorina, che era rimasta senza fiato dallo spavento, accettò di restituire la bisaccia e andò a prenderla da una cassapanca. «Eccoti la bisaccia, ragazzo», disse la donna. «Ma prima dimmi, come hai fatto ad entrare senza che io ti vedessi?» «Ho indossato questa mastrucca che rende invisibili.» «Davvero? Ti prego, vendimela e dimmi quanto vuoi!» «Non voglio niente da te, ladra! Questa mastrucca appartiene a mio fratello Giovannino. Egli l'ha avuta in dono da nostro padre prima che il brav'uomo morisse.» «Ah, ti capisco, ragazzo. Un dono così prezioso porta con sé tantissimi ricordi e non è giusto privarsene. Ecco, tieni, prendi la tua bisaccia magica.» Donna Vittorina porse la bisaccia a Franceschino, ma quando il ragazzo tese la mano per prenderla, ella trattenne a sé ancora la bisaccia e disse: «Aspetta, ragazzo, per favore, prima che tu la riprenda, posso almeno provare la tua mastrucca? Una volta, solo una volta, prometto che te la restituirò. Insomma, non capita tutti i giorni di diventare invisibili. E io sarò tanto curiosa di scoprire l'effetto che farà guardandomi allo specchio senza vedermi riflessa. Solo una volta ti prego. Franceschino, che era d'animo buono, diede la mastrucca alla donna e quella, appena l'ebbe indossata, diventò invisibile insieme alla bisaccia che teneva in mano e deridendo Franceschino gridò: ah, ah, ah, ah! Sciocco ragazzo! Ci sei cascato! Bisaccia e mastrucca ora sono mie! Prendimi se ci riesci! Brutta megera e ladra! Gridò Franceschino. Subito donna Vittorina ordinò: guardie, guardie, accorrete! Al grido della padrona i guardaspalle entrarono nella camera e scoprirono Franceschino. Quindi lo afferrarono per le braccia e lo scaraventarono nuovamente fuori di casa. Il povero ragazzo se ne andò ramingo tra i pianti e la disperazione. Dopo qualche giorno Franceschino incontrò l'altro fratello, Pasqualino. «Franceschino, fratellino mio caro!» disse Pasqualino. «Che hai? Perché piangi?» «E piango, fratello mio, perché una donna ladra e bugiarda mi ha rubato la bisaccia magica e la mastrucca di Giovannino. Puoi prestarmi l'organetto? Voglio chiamare un plotone di guardia caccia per mandarli a casa di quella donna e farla portare in prigione». Pasqualino prestò il suo organetto a Franceschino, che subito si precipitò a casa della donna ladra. Quando vi giunse, suonò l'organetto e la melodia che ne uscì richiamò un plotone di guardia caccia, ai quali Franceschino ordinò di mettere in catene donna Vittorina. Il guaio fu che, una volta entrati in casa, i guardia caccia non videro donna Vittorina, dato che ella era invisibile. Trovarono solo i guardaspalle e dovettero andar via a mani vuote. Franceschino, pensando che oramai tutto fosse perduto, se ne tornò a casa con la disperazione nel cuore e soprattutto con molta fame, perché da parecchi giorni non mangiava. Mentre Franceschino tornava a casa, passò vicino a un campo d'orzo, dove vide due alberi di fichi belli, grossi e maturi. Uno aveva fichi neri, l'altro aveva fichi verdi. Franceschino si avvicinò all'albero di fichi neri e cominciò a mangiarne un bel po'. Ma ad ogni fico nero che mangiava, il naso gli cresceva di un palmo e il povero ragazzo, affamato, non se ne curò. Dopo aver divorato 12 fichi neri, il suo naso crebbe di ben 12 palmi. Solo dopo aver soddisfatto la fame, Franceschino vide il suo naso lunghissimo, tanto lungo e pesante che non sapeva come poter proseguire il cammino verso casa. Fu allora che si avvicinò un topo, non topo, con due orecchie grandi, che gli parlò. «Ciao, ti chiami Franceschino, vero?» «Sì», rispose Franceschino. «Povero ragazzo, dovevi aver tanta fame». «Sì». «E il naso t'è cresciuto tanto?» «Sì». «Ah, non disperare. Raccogli ora i frutti dall'albero di fichi verdi e mangiali finché il tuo naso tornerà come prima». «Grazie, amico mio. Ehi, un momento. Ma tu parli? Sei un topo parlante?» «Per cominciare, Io non sono un topo. Ma hai le orecchie da topo? Lo so bene. Apparteniamo alla stessa famiglia. Siamo roditori. Ma io sono di rango molto più elevato. Sono un ghiro. E precisamente un ghiro parlante. Il mio nome è Soriche Padente. Sono qui perché mi manda tuo padre. Mio padre? Ma che dici? Disse Franceschino, strabuzzando gli occhi. Dico quel che dico perché so quel che dico, rispose Soriche Padente. Mio padre è morto qualche tempo fa. Lo so bene. Infatti, egli non è più di questo mondo. Ora appartiene all'altro mondo, quello del lungo sonno. Ed è solo a me che vengo da laggiù che può parlare. Perché anch'io dormo tanto. Ma tanto tanto, sai? Hai mai sentito dire che chi dorme tanto dorme come un ghiro? Me, appunto. Ora vado, ma ricorda di mangiare i fichi verdi se vuoi che il tuo nasone torni ad essere il naso giusto. Ciao, ciao! Subito dopo, Soriche Padente scomparve tra la boscaglia. Quando Franceschino rimase solo, prese un fico verde dall'altro albero e lo mangiò. Subito sentì che il naso s'accorciava di un palmo. Forse il ghiro parlante aveva detto il vero? Poi ne mangiò un altro e il naso s'accorciò ancora di un palmo, poi un altro e un altro ancora, finché, mangiati 12 fichi verdi, il naso tornò com'era al principio. Franceschino ebbe subito un'idea. Staccò dall'albero dei fichi neri alcune foglie grandi, fece un paniere e lo riempì con 12 fichi neri. Si travestì da venditore ambulante e con quei fichi neri andò a casa di Donna Vittorina. Quando vi giunse, si sistemò sotto la finestra e cominciò a gridare come un esperto venditore di fichi. Fichi grandi, fichi neri, fichi maturi e dolci, venite donne, venite, affrettatevi, ho qui fichi belli belli, un paniere solo m'è rimasto con 12 fichi neri, grossi e maturi. Appena Donna Vittorina sentì che il mercante vendeva l'ultimo paniere di fichi neri e maturi, ordinò alla serva di chiamare il venditore di fichi e comprarglieli tutti. Dopo che la serva li ebbe comprati, 8 fichi neri li mangiò Donna Vittorina e 4 li mangiò la serva. Appena le due donne finirono di mangiarli, videro i propri nasi allungarsi. A Donna Vittorina spuntarono 8 palmi di naso e 4 palmi di naso spuntarono alla serva. Oi, oi, oi! Padrona e serva si disperarono. Chiamarono dottori e maghi d'ogni specie, ma non ci fu nessuno che poté trovare un rimedio per riportare i loro nasi come prima. Solo Franceschino conosceva il segreto, cosicché si travestì da dottore e si recò a casa di Donna Vittorina. Appena giunto, vi trovò le due donne stese a letto e tormentate dai dolori dei propri nasi allungati. Donna Vittorina lo supplicò. «Dottore, vi scongiuro, aiutate me e la mia serva a levarci questi lunghi nasi. Vi pagherò qualsiasi cifra!» Il finto dottore Franceschino disse con la tipica voce nasale che solitamente usano i dottori. «Gentile signore, mi duole dirlo, ma da quel che vedo i loro nasi sono stati contagiati da un terribile morbo assai raro e sconosciuto. Si tratta di Longus Morbus Rara Nasus, una continua escrescenza d'origine sconosciuta che colpisce proprio la mucosa del naso. Forse un morbo da nasello dei tropici, chissà. Ma proprio perché di sconosciuta provenienza, consiglio alle signore di vivere in due camere separate e isolate, perché non si sa ancora chi delle gentili signore porti il morbo più violento. Mi recherò io da ciascuna delle loro signore per i dovuti controlli e ovviamente abbigliato con indumenti adeguati e protettivi. Tornerò domani. Buona giornata. E il finto dottore se ne andò. Lo stesso giorno donna Vittorina e la serva si separarono e si chiusero nelle rispettive camere. Il giorno dopo Franceschino riempì un paniere con 4 fichi neri e 4 fichi verdi e si avviò alla casa di donna Vittorina. Appena vi giunse, si recò prima nella camera dove stava la serva, alla quale svelò ogni cosa, riferendole che il suo naso sarebbe restato così forse per sempre, almeno che ella non lo avesse aiutato a riprendersi la bisaccia, l'organetto e la mastrucca, e in quel caso l'avrebbe sicuramente guarita. Altrimenti poteva tenersi il suo naso con quei 4 palmi in più e chissà quanti altri ancora. La serva fu terrorizzata dalle minacce di Franceschino e giurò di dargli tutto il dovuto. Quindi, in gran segreto, scese nella cantina, dove prese la bisaccia, l'organetto e la mastrucca e li consegnò a Franceschino, che, come aveva promesso, diede da mangiare alla serva i 4 fichi verdi e il suo naso tornò alla sua giusta misura. Subito dopo Franceschino andò nella camera dove stava donna Vittorina. A lei però diede da mangiare i 4 fichi neri rimasti. Ed ecco che il naso della donna ladra, da 8 palmi che era, anziché ridursi, s'allungò fino a 12 palmi. E così restò per sempre. Finalmente Franceschino poté tornare a casa per restituire a Giovannino la sua mastrucca, a Pasqualino il suo organetto e lui si tenne la bisaccia di pelle di Montone. Avete ascoltato Parole di Storie, fiabe, favole, racconti, leggende, adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.paroledistorie.net